You dig where I'm coming from, baby? I got something for your mind, your body, and your soul. Allora, all'incirca 15 primi dopo le 19, anche per questo sabato, dopo un po' di sosta, riparte il Container DJ 7. Un saluto da Jam Select. E un saluto anche dal Barone, ben ritrovati all'interno del Container DJ 7, ben ritrovati sui 105.85 di Radio K Centrale. E allora, una lunghissima pausa che appunto ci ha tenuto questo periodo anche lontano dall'Italia, ritorniamo sulle frequenze di Radio K Centrale come al solito, dedicando spazio alla DJ Culture. Ritorniamo alla grande con un nostro carissimo amico, un nostro special friend, DJ R, direttamente dalla Drum & Bass Arena del Link, ormai un'istituzione nazionale e quasi internazionale. Ricordiamo i set appunto di DJ R, sono veramente delle perle. Noi siamo degli amanti, vero Sandro? Direi proprio di sì, e chiaramente direi amanti della miscela jungle, drum and bass, che si respira chiaramente tutti i sabati qui al Link in Drum and Bass Arena. Ma soprattutto DJ R è anche un produttore, ricordiamo appunto fondatore del Mistofonico Lab, un laboratorio appunto dedicato alle produzioni musicali, dove sta sempre più diventando una fucina di nuovi talenti. Già all'attivo 3 compilation, tra le quali l'ultima proprio è stata regalata a tutti, appunto, forse non altro, ai mille, sì, fortunati, che sono entrati il 31 qui al Link, di fine anno al Link, un'operazione veramente secondo me molto importante. E quindi ora è già partito nello studio B di Radio K Centrale il suono accattivante di DJ R. Vi ricordo che siete all'interno del Container DJ Set, rigorosamente in diretta da Radio K Centrale. E allora Container DJ Set questo sabato si muove al ritmo jungle, dall'altra parte del vetro DJ Ara miscelare i suoi vinili. Ve lo ricordo il contatto telefonico 051 35 7472, altrimenti potete anche seguirci attraverso internet, lo ripetiamo veramente all'announce, a www.radiokcentrale.it, e quindi potete cliccare sull'icona streaming e ascoltare in diretta Radio K Centrale. questo è il suono di DJ R che nello studio B di Radio K Centrale all'interno del container DJ set sta riproducendo il suono della drum and bass. Ed è un suono veramente caratteristico, quello di DJ R, secondo me contaminato dal funk. Voglio appunto ricordare anche le origini di DJ R, ricordiamo gli inizi degli anni 90, produttore di hip hop funky, un nome su tutti appunto Sangue Misto, e comunque ecco appunto il suo background veramente vastissimo, fatto di tantissima buona musica che appunto affonda le origini nella black music, traspare appunto nelle sonorità tech step, jungle, drum and bass. Un ottimo selezionatore e ribadisco ancora veramente in dancehall riesce a offrire delle vere perle. Chiaramente permane il contatto con il container DJ set 051 357472, www.radiokcentrale.it. sono proprio queste pause con le ripartenze che secondo me caratterizzano parecchio le ultime produzioni appunto di jungle e drum and bass. Un suono che tende appunto, come dicevo prima, al funk, è comunque un suono che caratterizza parecchio lo stile di DJR, ricordiamolo, DJR direttamente dalla Drum and Bass Arena del Link, una delle dancehall più calde d'Italia, sicuramente la più accattivante, visto che oltretutto quest'anno si sono dotati di un nuovo impianto veramente cattivo e che suona veramente bene rispetto appunto agli altri anni. Vi voglio appunto ricordare che siete sempre agganciati all'interno del container DJ Set in diretta da Radio K Centrale. Doveroso chiaramente lasciare anche le nostre coordinate 051 35 7472, in etere andiamo sui 105.85 in FM qui a Bologna, sul web www.radiokcentrale.it. E allora continua il magico gioco alla console appunto curato da DJR, rimanete agganciati su Radio K Centrale. Test it, don't let it break it. Just watch it. Don't you have a world psychopathic? Yes, I'm killing the children and leave them body in the rubbish. Him see your wife turn around and then them one fit it. Very wussy, well busy. Don't worry, cause me go send for me shotty and must fuck him when me have him. Will not kill him. Listen when the DJ sing. Dirty, decent, but dirty Harry. We all got a piece of dirty Harry inside me. If you don't think so, I'll call your bluff. What time? Everybody's on the up and up. We got the devil on our shoulders, you feel me? Evil thoughts run through us like strange feelings. And God will trust us, pretend with us. Some of us lie and some kill cuss and lust. Questo è il suono del grande, del mitico DJ R, ultima traccia, ultimo disco per questo suo set. Noi lo ringraziamo tantissimo, come sempre è sempre un graditissimo, veramente un piacere. È sempre un grande piacere, è vero, quello che dici, assaporare le atmosfere che ricrea ogni volta il Container DJ set DJ R, chiaramente atmosfere che questa sera giù al Link, in Drum and Bass Arena, ritroveranno vita, appunto, diciamo. Appunto, vi ricordiamo appunto che DJ R lo ritroverete all'interno della Drum and Bass Arena del Link, come sempre a come dire, guidare la dancehall nel sabato notte. In più vi ricordo, visto che abbiamo tirato in mezzo il Link, che questa sera ci sarà il live di Queen and Berger, direttamente dalla Chip Recording, etichetta di elettronica austriaca di Vienna, che ormai è diventato veramente un punto di riferimento. E allora noi ringraziamo nuovamente DJ R, però il container DJ set non si ferma qui. Rigorosamente in diretta Radio K Centrale, il container DJ set, 051 357472 per contattarci immediatamente nello studio A di Radio K. Siamo in streaming audio sul web www.radiokcentrale.it per gli amanti delle lettere 105 e 85 in FM a Bologna. questa volta è veramente l'ultimo disco per DJR. Lo ringraziamo nuovamente per questa sua chiusura a sorpresa, veramente un'ottima selezione. Chiusura a base di dub plate, chiaramente. DJR questo sabato ha riprodotto il suono della giungla qui al Container DJ set. Radio K Centrale. E dopo il set appunto offerto da DJR qui nel Container DJ set, il suono continua sempre sulle ritmiche jungle drum and bass, con un set curato da Time Code per la Moving Shadow, storica appunto etichetta che ha sempre fatto un percorso di ricerca su questo tipo di sonorità. Un set molto accattivante anche questo, Time Code, Moving Shadow. Questo è il Container DJ set, Radio K Centrale.